Benvenute e benvenuti a Radio Africa, trasmissione del sabato pomeriggio di Radio Onda Rossa dedicata alle sonorità del continente africano, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza. My Africa, want to be free. Oh, Africa, Africa, Africa, want to be free. 06 49 17 50 il contatto telefonico. Africa, want to be free. Oh, Africa, Africa, Africa, want to be free. Mama Africa, Africa, want to be free. As I know your system is a block against my people, but if Jah be for us, nobody can be against us. If Jah is for my people, insieme fino alle 18, e vi ricordo anche che Radio Onda Rossa non fa pubblicità, quindi se volete sostenere questa voce libera nell'etere, il conto corrente postale il 61 80 40 01 intestato alla cooperativa Laboratorio 2001, via De Voci 56, Roma. Africa, Africa, Africa, want to be free. Quindi cominciamo con le nostre selezioni, che oggi saranno un po' intorno all'area musicale del Ghana e della Nigeria, come da un po' di tempo a questa parte, ma d'altra parte questo bacino musicale è talmente vasto che insomma non si finirebbe mai. E allora cominciamo con una novità: lui è Femi Kuti, il figlio di Fela, è il più grande dei figli. E Femi Kuti con il suo ultimo lavoro, No Place for My Dream, non c'è un luogo per i miei sogni. E allora vi faccio ascoltare la terza traccia che si intitola proprio come il titolo dell'album, No Place for My Dream. Lui è Femi Kuti. Has a dream. My dreams to see everlasting peace. People smiling in the streets, singing that sweet song of peace. So I set out to achieve my dream, feeling proud and full of faith, excited, so to say. People are shocked to see what I feel, but no, they said there's no place for my dream. Why don't you face reality? For great men have had that same dream, and you'll end up the same way. Hero, hero, hero, hero. They tell me that powers to make them see. Happiness for all can be more than a dream come true for humanity. This dream can become a reality. So I set out to achieve my dream, feeling proud and full of faith, excited, so to say. For people are sure to see what I feel, but no, they said there's no place for my dream. Why don't you face reality? For great men have had that same dream, and you'll end up the same way. I better wake up from my dream. I better wake up now before I wake up late. But nothing's never ever going to change. Life will always remain the same. Corruption, oppression will never end. I better put that in my head. As there's good, there must be bad. But that's the game of the life we have. So you see, there's no place for your dream. The only good is meant to be. For great men have had the same dream, and you'll end up the same way. Femi Kuti, che è il figlio più vecchio di Fela. Femi è nato nel 62 e questo album è un album molto interessante, anche perché poi lui è riuscito in qualche maniera a distanziarsi dall'ombra naturalmente del padre, un'ombra che poteva in qualche maniera condizionarlo. Invece ha elaborato un suo stile, i suoi brani sono appunto più brevi, più sincopati, ma il messaggio sociale è, se fosse possibile, ancora più radicale. Questo album c'è una bella copertina, una discarica e una donna che attraversa questa discarica con una bacinella e delle cose in testa, con un aspetto assolutamente dignitoso, quasi regale, e attraversa appunto questa spianata, questa discarica di rifiuti. E dice Femi, i politici ci raccontano quello che noi vogliamo ascoltare, ma non c'è lavoro, non ci sono soldi, come fa la gente a sopravvivere? La sofferenza del popolo ormai è troppa e bisogna che finisca. E Femi appunto racconta in questo album come il mondo sta cambiando, come appunto non ci sia lavoro, non ci siano soldi, e racconta appunto anche della sofferenza, delle difficoltà del suo continente. E lui ha ripreso, ha fondato il suo gruppo, i Positive Force, alla fine degli anni 80, inserendo alcuni elementi che avevano suonato con Fela, come delle sosimi per esempio, quindi dando al suo gruppo insomma uno stile e una capacità anche di interpretazione notevole. E quindi da Femi Kuti ce ne andiamo ancora, mantenendoci sullo stile dell'afrobeat, ma partendo dal Ghana. Quindi il Ghana significa High Life, questo genere musicale che risale ai primi anni del secolo. E allora c'è Ebo Taylor, che alla tenera età di quasi 75 anni ha fatto questo disco Love and Deaf. E allora Ebo Taylor, il brano Nganga. We'll be right back. no yo. Iye si jama koma, iye si kafu mi yente. Kobe ti se di babaka, neso yo bi obedo. Iye si ganga, iye si badzi no yo. Iye si jama koma, iye si kafu mi yente. Kobe ti se di babaka, neso yo bi obedi. Debo Taylor è stato uno dei musicisti più prolifici del Ghana, classe 1936, ed ha attraversato tutta la storia del musicale di questo paese. E infatti nel 1957, quando il Ghana di Kwame Nkrumah otteneva l'indipendenza, lo stile musicale High Life ha partecipato alla rinascita culturale di questo paese e anche del continente. E all'epoca, nel 57, Taylor aveva appena 20 anni e partecipò appunto a questo movimento culturale suonando in orchestre come le Stargazer e le Broadway Dance Band. E poi se ne andato a Londra, dove ha incontrato il giovane Fela, con cui ha suonato e ha fatto improvvisate jam session. E poi al suo ritorno ha continuato naturalmente a suonare, finché poi la situazione politica ed economica del Ghana è cambiata dopo il colpo di stato militare. Ed è stato un produttore di artisti molto interessanti, sempre della scena High Life, come Pat Thomas, Imari Jata, Sei Key Man, un po' dimenticato fino al 2010, quando due superstar dell'hip hop americano, Usher e Ludacris, hanno inserito un suo sampler in un loro brano, il sampler del brano Even, e da allora appunto è cominciato una nuova vita, un nuovo successo. Lui dopo tanti anni ha fatto questo album con la Strut Love and Death, e poi diciamo così ha continuato ancora con un ulteriore album. E allora, sempre sull'High Life, questa volta ci andiamo ad ascoltare un gruppo che si chiama gli Sweet Talks. Father Same. Oh, obey, who made you and you? Asana Yako. Who made so yummy? Now why are you saying more? Asana Yako. Akwesi tami, kwejo tami, naswe kosi fio, ochane yeko. Nensi amafwe, mume ya odam, waya sitemo, nefendye usi. Chiamavano Sweet Talks e il brano è Eurisi, è un brano, diciamo così, di una filosofia spicciola ma assolutamente, assolutamente vera. Dice: la morte è inevitabile, quindi cerchiamo di divertirci finché possiamo, accettiamo questo dato di fatto e cerchiamo appunto di divertirci finché siamo in vita. Gli Sweet Talks sono uno dei gruppi musicali più importanti della scena della E-Life, hanno contribuito moltissimo a rinnovarlo e loro suonavano questo genere musicale veniva considerato dai giovani ghanesi un genere musicale un po' per vecchi, e mentre invece appunto attraverso gli Sweet Talks anche le nuove generazioni hanno cominciato ad apprezzare e rielaborare musicalmente questo genere. Loro si sono formati nel 1973 e suonavano in un hotel che si chiamava Talk of the Town Hotel, un hotel un po' particolare perché era frequentato da marinai, prostitute, e in questo hotel c'era un palco all'interno di un cortile dove appunto si suonava quasi tutti i giorni della settimana e si lasciava lì la paga praticamente di una settimana per ballare, e poi il sabato cominciavano alle 6 del pomeriggio perché il sabato veniva considerato un Sunday afternoon jump e quindi questi cominciavano a ballare fin dal pomeriggio. E loro poi sono andati a suonare anche negli Stati Uniti, a Los Angeles, dove appunto hanno fatto questo album Hollywood High Life Party, da cui ci siamo ascoltati questo brano. E allora sono le 16:56, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Radio Africa. E allora c'è un brano che diciamo così, è diventato ormai un classico della musica africana e che è stato rielaborato in tante versioni, ma che ancora rimane fra i più preferiti. Un brano che si intitola Sweet Mother di Prince Nico Mbarga, che era un personaggio particolarissimo, soprattutto sul palco, con questi suoi stivali bianchi fino alle ginocchia, gli zatteroni, uno stile che un po' ricordava James Brown. Ebbene, ha venduto 13 milioni di dischi con questo brano Sweet Mother, e allora insomma ve lo faccio ascoltare. Questo suo Sweet Mothers. È un brano Sweet Mothers, che è un brano molto semplice dedicato appunto alla madre, e nonostante questo insomma ha avuto un enorme successo ed è stato anche rivisitato in varie forme. Vi voglio far ascoltare questa di Rachino Leal, Skepta. Skepta è appunto il DJ che l'ha rivisitata in versione house. Land of freedom. I no go forget you for the suffer where you suffer for me, sweet mother. I no go forget you for the suffer where you suffer for me. Skepta in questa sua versione house di Sweet Mother, brano del 1976. E allora ritorniamo ancora in ambito di High Life, e quindi musica che proviene dal Ghana, ma il bacino del Ghana è un po' limitato per questo genere, che si estende ben oltre i confini del Ghana e arriva anche in Nigeria, in parte dell'Africa occidentale anglofona. Lui si chiama Oscar Sarley e il brano è Bukom Mashi. Oscar Sully e la sua Uru Dance Band in questo brano Mukom Mashi. Brano del 1973. Thank you. Allora, questo brano si chiama I Joel Homo e lui è Ginger Johnson e i suoi African Messengers dall'album African Party. E Ginger Johnson al secolo Folonyo Johnson era nato a Lagos e il suo soprannome Ginger era dovuto al fatto che i suoi capelli si erano diventati un po' biondastri, sarà a causa del sole, e lui se ne andato molto presto in giro per il mondo perché faceva il marinaio e poi è approdato a Londra, dove appunto aveva cominciato a suonare col suo gruppo, gli African Messengers. Ed è stato un musicista molto attivo e molto conosciuto, anzi a volte forse più conosciuto addirittura in Europa piuttosto che in Africa. Lui suonava uno strumento particolarissimo che praticamente era costituito da delle zampe di elefante ricoperte con della pelle, come se fossero appunto dei tamburi, e insomma lui amava suonare questo genere. Naturalmente era una cosa particolare, anche perché poi questi elefanti erano stati uccisi a centinaia in Sudafrica dai cacciatori, e quindi appunto lui aveva rimediato, diciamo così, questo particolarissimo strumento che comunque suonava con abilità. Ginger Johnson e i suoi African Messenger. 17:15 all'ascolto di Radio Africa, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Vi ricordo anche il contatto telefonico, che è 06 49 17 50. Fra non molto faremo anche un collegamento con la piazza manifestazione in sostegno dell'occupazione di Comunia dopo lo sgombero, e quindi insomma sentiremo un po' come sta andando. Intanto continuiamo ancora con le nostre selezioni sull'onda dell'Highlife ghaniano. Ritorniamo un po' anche in qualche modo a Oscar Sully, che abbiamo lasciato un paio di pezzi fa. Loro si chiamano gli Oghiatana Show Band e Oghiatana significa torcia bruciante. Il brano è Disco Africa. Disco Africa di Oghiatana Band, era il 1976, un ritmo di quasi 40 anni fa ma attualissimo, con queste percussioni travolgenti, l'inserimento di questo potente basso, ma insomma qualcosa che ancora fa muovere anche parecchio. 17:20, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Questa naturalmente è Radio Africa. Allora, un altro gruppo che si chiamano gli Edzole, che sono stati la prima e più originale gruppo afro che intorno agli anni 70 hanno suonato in Ghana, introducendo un mix di musica tradizionale con venature rock, e loro risiedevano presso un nightclub che si chiamava Napoleon, dove loro suonavano, e che era frequentato anche dal trombettista sudafricano Hugh Masekela, con il quale poi nel 1973 hanno anche prodotto un album. E allora entriamo un po' nella sfera di quello che viene definito l'afro rock. Il brano che vi faccio ascoltare si intitola Edzole. E allora loro sono gli Ezzole, un brano che ha anche degli aspetti quasi psichedelici. Comunque continuiamo e ce ne, con le nostre selezioni ce ne andiamo in Nigeria, dove incontriamo Celestine Uku. Celestine Uku ha cominciato la sua carriera negli anni 60 e ha formato il suo gruppo, il Music Royals, che più tardi poi divennero i Philosophers National negli anni 70. Lui è stato sempre descritto come un uomo gentile, di sentimento, e anche la sua musica è una musica da un certo punto di vista rilassante, con un ritmo però contagioso, in cui si parla spesso dei temi sociali e si fa una richiesta forte anche di pace in un paese come la Nigeria, che ha avuto una storia travagliata di divisioni e di guerre. È morto tragicamente in un incidente stradale all'età di 39 anni. E allora Celestine Uku, ci ascoltiamo questo brano che si intitola Obialu Be Onye. Celestine Okwun, questo brano, che è anche un brano insomma quasi un po' riflessivo, anche qui con venature psichedeliche. Lui appunto viene dalla Nigeria, e dalla Nigeria facciamo un salto in Kenya. Loro si chiamano i Rwenzoris. Onda Rossa 17:37, e il corteo in sostegno dell'occupazione di Comunia sta passando proprio sotto le nostre finestre. Chissà se insomma riuscite anche ad ascoltare gli slogan. Comunia, un'esperienza di occupazione che appunto in questo momento è difesa dal corteo. Pensate che avevamo in programma un collegamento con la piazza, ma la piazza ce l'abbiamo proprio qua sotto. Un corteo partecipato, ci sono un bel po' di compagni che appunto stanno sostenendo qua in piazza questa occupazione contro i tentativi di speculazione. Anche qui naturalmente a San Lorenzo il si cerca insomma di strappare questi spazi a una socialità per appunto costruire e speculare. Vediamo un po' se sentite questi slogan, insomma, qua sotto le nostre finestre. Esperienza questa dell'occupazione di Comunia che è stata appunto sgomberata il 16 di agosto con grande schieramento delle cosiddette forze dell'ordine, proprio in un momento in cui appunto a San Lorenzo e alla difesa dell'occupazione non c'era nessuno, e quindi insomma i compagni però sono ritornati nuovamente a occupare, come appunto avete anche ascoltato nel primo pomeriggio con l'intervento di alcuni compagni dell'occupazione. Onda Rossa 87.9 nella modulazione di frequenza 17.40, appunto come vi dicevo è passato poco fa sotto le nostre finestre un nutrito corteo di compagni a sostegno dell'occupazione di Comunia. Poi cercheremo anche di contattare insomma i nostri corrispondenti in piazza per avere anche insomma un'idea di come stanno andando le cose. Ma gruppo ghanese che però risiede a Londra, il brano è Handkerchief. Handkerchief. È l'esperienza di Comunia che parte il 24 aprile scorso, quando appunto un'occupazione ha liberato le ex fonderie Bastianelli in via dei Sabelli 102, e nasce dall'incontro delle esigenze dei precari, degli studenti, degli abitanti del quartiere, che non si sono rassegnati a subire la crisi, ma si sono organizzati per resistere e creare appunto un'alternativa dal basso attraverso un meccanismo di mutuo soccorso, quei meccanismi che videro la luce praticamente agli inizi del Novecento, quando proprio il movimento operaio, insomma, cominciava a organizzarsi. Uno sportello legale, un'aula di studio, un laboratorio di video, una scuola popolare, lo sport popolare, uno spazio per decidere le iniziative culturali gratuite. Sono queste alcune delle esperienze, dei progetti nati all'interno dello spazio di via dei Sabelli. Su questo spazio ha messo gli occhi la speculazione, anche perché appunto San Lorenzo è un quartiere che sta mutando radicalmente il tessuto sociale, anche se rimane sempre un quartiere collegato all'università, però di fatto è appetibile dal punto di vista della speculazione immobiliare, sia per la sua posizione centrale. E poi naturalmente c'è questo uso dello spazio, e quindi qualsiasi spazio che non sia destinato alla speculazione naturalmente deve essere in qualche maniera utilizzato a questo fine. Non ci sono luoghi fisici per chi invece vuole organizzare uno spazio sociale dedicato alle esigenze appunto dei lavoratori, dei precari. E il 16 agosto questo spazio non esiste più, nel senso che le forze dell'ordine appunto hanno sgombrato le ex fonderie nell'unico giorno dell'anno in cui appunto credevano di poter agire indisturbati, e poi hanno, con la scusa di una presunta inagibilità che però non è mai stata attestata da alcuna perizia. È interessante, in certi versi anche divertente, andarsi a leggere il sito dell'ex fonderie Bastianelli, cioè della società, questa società di speculatori immobiliari che appunto vuole impossessarsi di questo spazio, perché appunto ci sono delle contestazioni riguardo tutto questo, piuttosto, insomma, curiose e anche interessanti per far capire un po' la logica e anche in qualche modo la campagna di disinformazione che è partita rispetto a questa situazione. E quindi, a partire dal problema della speculazione, l'esperienza di Comune ha tentato di dare delle risposte ai problemi di San Lorenzo, risposte che vengono dal basso, risposte che hanno a che vedere da una parte con una risposta alla crisi che in qualche modo impedisce l'utilizzo di spazi sociali, rende sempre più invivibile il territorio, conduce ad una desocializzazione, una atomizzazione, e quindi non ci sono più luoghi di incontro collettivo, e quindi l'esperimento è anche quello di una sorta di democrazia dal basso e di partecipazione. Questo esperimento non deve avere spazio, evidentemente, perché la rendita fondiaria che qui a Roma domina incontrastata e stabilisce, insomma, quello che deve accadere in questa città ormai da anni, evidentemente non consente questo. E c'è stato lo sgombero, poi c'è stata una ripresa dello spazio, un ulteriore sgombero, e quindi appunto la manifestazione che è ancora in corso e che è passata poco fa sotto la radio, una manifestazione partecipata di studenti e abitanti di San Lorenzo, compagni che insomma vogliono far capire come appunto questo spazio si debba difendere e non può essere lasciato alla speculazione. Messe E l'assemblea dell'occupazione, insomma, è stata molto chiara, infatti gli abitanti del quartiere, perché gli studenti, le strutture dell'opposizione sociale hanno animato appunto un'assemblea per ribadire l'importanza dei progetti, dei servizi e degli spazi occupati a Comunia. San Lorenzo non ha bisogno di questi 54 mini appartamenti di lusso che dovrebbero appunto sostituire questo spazio, mini appartamenti di lusso utili solamente a chi vuole speculare. Roma invece ha bisogno di un piano di edilizia popolare che garantisca la casa a tutti e a tutte, e naturalmente serve una moratoria per il rilascio di ogni licenza edilizia a San Lorenzo che blocchi questi progetti speculativi sul quartiere finché venga prodotto dal comune uno strumento urbanistico unitario di recupero urbano. Queste ex fonderie appunto devono essere riconosciute come un patrimonio culturale della città, garantendo che appunto venga utilizzata di conseguenza attraverso un processo di partecipazione, niente di più distante dagli interessi appunto della speculazione edilizia. Ed è proprio con questo, in questo contrasto di interessi anche che viene un po' definito, come dire, il modello di società che abbiamo in mente, in contrasto appunto con quella, con quello invece degli speculatori. Nothing but Dumbia in questo Keleya, un brano funk molto tirato. Moussa Dumbia veniva dal Mali, ma aveva suonato in Costa d'Avorio ad Abidjan, quando Abidjan era un punto in cui si ritrovavano moltissimi artisti dell'Africa occidentale. E allora siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza 06 49 17 50 il contatto telefonico, 17.58 se fatta l'ora per Radio Africa e l'ora per Soul Peanuts, che fra un po' ricomincerà le sue trasmissioni e allora ricomincia, così si ricompone al completo il palinsesto della radio per il sabato pomeriggio. Radio Africa per questo sabato vi saluta e vi lascia in compagnia di un brano di un gruppo musicale che si chiama l'Orchestra Poliritmo di Cotonou, un super gruppo che viene dal Benin, Lion is Burning. Oh, Radio.